Mango Tart legge Manacold di Sen Lin Yu. Capitolo 23. Era in piedi nella cucina di Spinner's End. Si voltò lentamente, guardando le superfici coperte di quaderni, ingredienti e pozioni ribollenti. Fece una pausa quando notò una pozione che luccicava nell'angolo. Si avvicinò e guardò il vapore a spirale che saliva dalla superficie. L'annusò di nascosto. Il profumo speziato e terroso del muschio di quercia, le sfumature affumicate del cedro, l'odore livido delle foglie che si ossidavano. E pergamena? No. Annusò di nuovo. Papiro. Si allontanò bruscamente e guardò gli altri calderoni circostanti. «Stai preparando una buona varietà di pozioni d'amore», disse, guardando il punto in cui Severus era chino su un calderone bollente. «Un nuovo progetto del signor Oscuro. Improvvisamente ha sviluppato un interesse nel cercare di renderla un'arma», disse Severus, sogghignando verso il liquido torbido e luminescente su cui stava lavorando. Hermione sentì il sangue gelare. «È una possibilità?» Severus scrollò le spalle con un debole sorriso. «Sono sia scettico che demotivato, quindi molto probabilmente no. Credo che fosse più un'idea passeggera che qualcosa per cui avesse un interesse sincero. Sto preparando un rapporto completo da presentare nel caso in cui mi chieda qualcosa, e lo sto facendo a casa mia piuttosto che in laboratorio per assicurarmi che nessuno offra idee innovative». Hermione esaminò la stanza. Riconobbe 10 varietà di filtri d'amore e alcuni afrodisiaci, oltre ad altri 15 che sembravano sperimentali. Cosa renderebbe un filtro d'amore un'arma? Qualcosa di eccezionale potenza che non richiede rifornimento. Credo che voglia usarlo per gli interrogatori. Ma è osceno, disse infine Hermione. Infatti, fortunatamente o forse sfortunatamente, ha altre questioni che considera più urgenti su cui il Sussex deve concentrarsi. Hermione si svegliò, ancora distesa sul freddo pavimento del bagno. Continuò a stare lì. Se c'è un lato positivo della sua depressione, era che rendeva il sonno più facile. Era come se il suo corpo si fosse arreso. La rabbia che aveva passato mesi a coltivare si era sciolta e lei era rimasta stanca e svogliata, come se il corpo pesasse troppo anche solo per essere tirato su dal pavimento. Poteva dormire e dormire ancora, rimanendo in stato di disperazione per la maggior parte della giornata. Si spinse su dal pavimento, andò nella sua stanza e si infilò sotto le coperte. Si strinse le coperte intorno. Anche il suo cervello era stanco e svogliato, come se il solo pensare le togliesse troppe energie. Guardò l'orologio. Erano quasi le 9 di sera. C'era un vassoio con la cena accanto alla sedia, ma non aveva appetito. Si chiese perché Malfoy fosse in Francia, presumibilmente per uccidere altre persone. Sarebbe stato mascherato o lo avrebbe fatto apertamente? Si chiese che aspetto avesse quando lanciava la maledizione. La maggior parte delle persone avevano il volto piegato in una smorfia rivoltante quando lo facevano. Persino Voldemort. Ma l'odio e la furia di Malfoy erano così freddi. Forse aveva lo stesso aspetto di quando stava uccidendo Montague. Si chiese se la sua esposizione come High Reeve fosse stata intenzionale. Se si stava muovendo per prendere il potere da Voldemort, doveva essere conosciuto, conosciuto e temuto. Rivelarsi era stato un rischio calcolato, forse. Contare sul bisogno di Voldemort di un personaggio pubblico per assicurarsi la vita. Se le cose in Romania erano così instabili come era stato sottinteso, Voldemort non poteva ucciderlo, anche se avesse voluto farlo. Avrebbe lasciato un vuoto di potere, destabilizzato l'intero esercito dei Mangiamorte e dato all'Europa l'opportunità di liberarsi. Non c'erano altre figure nell'esercito di Voldemort che fossero anche solo vagamente paragonabili. Aveva qualcuno del governo locale, ma Malfoy era l'unica stampella visibile di Voldemort a livello continentale. il generale più potente dell'esercito del Signor Oscuro, era quello che aveva detto a Storia. Generale Danny. Questo era quello che Malfoy aveva detto di se stesso. Hermione fece una pausa, perplessa. Era stato un generale durante la guerra? Non lo ricordava. Non ricordava quasi nulla di lui dopo la morte di Silente. Aveva dato per scontato che la sua ascesa di grado fosse avvenuta alla fine della guerra, ma forse si era sbagliata. Era difficile ottenere buone informazioni verso la fine. Non era inclusa nella maggior parte delle riunioni strategiche dell'ordine. Doveva essere un dettaglio che le era sfuggito. C'erano così tante cose che sembravano incomprensibili. Il suo potere, il senso della sua ambizione, il suo ironico talento per la guarigione, la sua capacità di smaterializzarsi, un rituale inteso come punizione. Hermione si rigirò il mistero nella mente. Probabilmente era quello a cui Voldemort si era riferito quando aveva parlato di Malfoy che lo aveva profondamente deluso. Hermione si chiese cosa mai potesse essere. I rituali di magia nera erano in genere fisicamente corrosivi e mentalmente erodenti. Malfoy sembrava sospettosamente, persino innaturalmente, intatto. In effetti, pensandoci meglio, Malfoy era impossibilmente sano di mente. Con la quantità di magia nera a cui era stato esposto, sia attraverso il suo uso personale che quello di Voldemort, avrebbe dovuto esserne avvelenato. A meno che non passasse tutto il tempo a sottoporsi a rituali di purificazione, il suo stato di salute sembrava impossibile. Lei si era sentita male anche solo per essere entrata nella sala di Voldemort, mentre Malfoy ne era sembrato del tutto indifferente. E sicuramente ci andava più volte alla settimana. Le persone non diventano indifferenti alla magia nera. Era come una droga velenosa. Dava assuefazione, influenzava. Era mortale. I maghi oscuri tendevano ad usarne sempre di più e tipi di arti oscure sempre più forti, fino a quando non si erodevano come Voldemort o impazzivano come Lucius e Bellatrix. Ma Malfoy era intatto, fisicamente e mentalmente immacolato e capace di smaterializzarsi attraverso un intero continente. Come diavolo era possibile? Continuò a porsi la domanda più e più volte, finché alla fine si arrese. Aveva troppe poche informazioni per poter fare delle ipotesi. Passò ad un altro problema. Non riusciva a capire dove si inserisse lei nel suo piano. Qualunque fosse il piano di Malfoy, sembrava che lei dovesse esservi inclusa in qualche modo. Era troppo dedito alla sua cura e al suo mantenimento perché potesse essere altrimenti. Hermione aveva pensato che fosse semplicemente perché faceva quello che le veniva ordinato, ma cominciava a sospettare fortemente che la sua attenzione andasse oltre. Sembrava personalmente ed emotivamente coinvolto in lei. Il modo in cui la fissava, la sua intensità era quasi innegabile. Era importante per lui o per i suoi piani. Dove si inseriva nella strategia il fatto di non metterla incinta? Odiava violentarla, non sembrava godere affatto e non ci provava. Lo faceva star male. Quindi perché non avrebbe dovuto volerla incinta il più presto possibile? A meno che non avesse a che fare con i suoi ricordi. L'idea che una gravidanza potesse sbloccare i ricordi era teorica al massimo. Ma se Malfoy sospettava che ci fosse qualcosa nella sua memoria che non voleva che si sbloccasse, aveva senso. Ma anche senza una gravidanza, i ricordi cominciavano lentamente a riemergere. Se fosse stata incinta, la cosa gli avrebbe fatto guadagnare 9 mesi di accesso esclusivo ai ricordi. Finché non fosse stata incinta, sarebbero emersi ricordi arbitrari che Voldemort avrebbe potuto trovare. Perché continuare a costringere entrambi a 5 giorni di traumi mensili? Non riusciva a spiegarselo. Rimuginò di nuovo sulla domanda. L'unico elemento aggiuntivo a cui poteva pensare era che doveva sapere che avrebbe preferito morire piuttosto che rimanere incinta. Aveva importanza per lui. continuò a chiederselo finché non si addormentò. Fu ansiosa per tutto il giorno successivo, nervosa e agitata fino a quando iniziò a temere di iniziare a farsi a pezzi la pelle. A malapena sfogliò la Gazzetta del Profeta prima di cominciare a strapparla e a piegarla in ogni forma che le veniva in mente. Non riusciva a piegare le gru, ma poteva piegare gli aerei e ogni sorta di altre forme geometriche. Riversò la sua energia nervosa nella piegatura fino a quando non le fecero male i polpastrelli. Cominciò a camminare attraverso l'ala nord, facendo scorrere leggermente le dita lungo le pareti mentre andava. Quando arrivò la sera, fece un bagno anche senza ricevere istruzioni. Topsy non apparve, ma la cena sì, la ignorò. Erano quasi le 9 quando l'elfo domestico fece improvvisamente capolino nella stanza. Distolse gli occhi mentre Hermione la fissava. «Il padrone è tornato! Devi prepararti!» Ci fu una pausa. «Sono già pronta», disse. Topsy annuì e poi scomparve. Andò a sedersi ai piedi del letto. Quando Malfoy apparve alla porta, si fissarono dall'altra parte della stanza per diversi minuti. Non c'era niente da dire. Lui attraversò la stanza e prese una fiala di distillato della pace, che le porse senza una parola. Lei ne ingoiò il contenuto e poi glielo restituì. Mentre lui prendeva la sua posizione, Hermione scivolò indietro sul materasso e si sdraiò, fissando con determinazione il baldacchino sopra il suo letto. Non si scompose quando sentì il letto spostarsi. Non emise un suono quando sentì che lui le spostava le vesti di lato e la esponeva. Quando lo sentì muoversi tra le sue gambe, si morse il labbro continuando a fissare il baldacchino. Quando lui mormorò l'incantesimo di lubrificazione, strinse la mano a pugno. Quando lui entrò in lei, emise un piccolo rantolo e girò la faccia verso il muro in preda alla disperazione, contorcendosi per l'angoscia interna. Il suo corpo l'aveva anticipata. Era in sintonia e in attesa. Era pronto. Lo voleva. Era un tradimento così profondo. Sapere che la sua eccitazione era fisiologicamente naturale non alleviava il senso di colpa. Quando lo stupro era clinico, era sopportabile. Quando era drogata, era sopportabile. Ma quando era solo lei, la sua mente e la sua fisiologia, era peggio che mai. Qualcosa in lei si strappò. «Mi stanno violentando e il mio corpo sta godendo», pensò amaramente, sentendo il bisogno di raggomitolarsi. Voleva vomitare. Non voleva sapere se Malfoy potesse notare la differenza. Se lo sapesse. Fissò il muro e cercò di non fare altri rumori. Quando lui venne, si sfilò immediatamente, le tirò giù la veste, prese la propria e si materializzò. Non si voltò per vedere che aspetto avesse prima di scomparire. Si limitò a chiudere le gambe e a rimanere sdraiata lì. Poteva sentire le lacrime lasciarle scie fredde lungo le tempie. I 2 giorni successivi furono gli stessi. Ci fu poco senso di sollievo la mattina dopo il 5° giorno. Sentiva solo freddo. La sua stanza e il suo letto avevano perso ogni senso di comfort per lei. Prese un nuovo set di vestiti dal guardaroba e andò giù per il corridoio fino al bagno con la doccia. Poi si raggomitolò in una palla stretta. Si sedette sul pavimento e rimase lì, sotto l'acqua. Non aveva senso negarlo. Le cose erano cambiate. Niente era più lo stesso, non più. La pozione era un fattore significativo, ma non poteva negare la serie di altri elementi. Malfoy non era il mostro che lei aveva inizialmente percepito come tale. Dopo aver saputo cosa stava succedendo alle altre surrogate, dopo quello che Montague aveva cercato di farle, dopo Astoria, dopo essere diventata terrorizzata da quali crudeltà Lucius Malfoy avrebbe scogitato se la sua surrogazione fosse stata trasferita. La persona che lei percepiva come Malfoy era cambiata. Essere salvata da lui aveva influenzato le cose. L'aveva toccata. Nessuno la toccava da così tanto tempo. L'aveva guarita, molto più del necessario. non voleva nemmeno violentarla. Anche se insisteva nel dire che la sua protezione nei suoi confronti era dovuta esclusivamente all'interesse personale, perché gli era stato comandato. Era quasi certa che stesse superando di gran lunga ciò che l'obbligo richiedeva. Anche l'influenza delle manette vi contribuiva. Avevano sempre avuto lo scopo di coltivare la cedevolezza e la dipendenza, a toglierle la capacità di resistere. Se avesse potuto resistere alla violazione di Malfoy, se lui avesse dovuto costringerla fisicamente a terra mentre la violentava, sarebbe stato più facile smettere di rassegnarsi e abituarsi. Era lo stare sdraiata in silenzio e viverlo. L'anticipazione di un'inevitabilità a cui non aveva la capacità di resistere. Se i modi in cui la feriva fossero più volontari e meno obbligati, sarebbe stato più facile vederlo per quello che era, anche se già allora la mente era crudelmente adattativa. La volontà inconscia di sopravvivere era scritta negli umani più profondamente di quasi ogni altra cosa. La sopravvivenza non richiedeva che fosse intatta, decente, se stessa. La sopravvivenza avrebbe eliminato qualsiasi parte di lei che rendesse più difficile resistere. Spazzato via l'angoscia mentale, si sarebbe attaccata ad ogni barlume di gentilezza, avrebbe fatto cessare il dolore della vita. Se non fosse stata attenta, le avrebbe rubato ogni parte di lei, fino a che non fosse stata così distrutta dentro da accettare la sua gabbia. Rabbrividì sotto l'acqua bollente che ancora le batteva addosso. Aveva bisogno di stare lontana da Malfoy. Non voleva parlare con lui, non voleva fargli domande. Se lui le avesse chiesto qualcosa, lei avrebbe risposto il più brevemente possibile. Avrebbe smesso di impegnarsi con lui, di cercare di capirlo. Poteva non essere in grado di controllare ciò che faceva il suo corpo, ma poteva controllare la sua mente. Qualsiasi cosa volesse da lei, avrebbe dovuto forzarla. Abbassò la testa sulle ginocchia mentre un senso di desolazione la invadeva. Era così stanca di essere sola. Strinse le labbra mentre si sforzava di non piangere. Anche la sua memoria era un abisso solitario. Quasi tutti gli anni di guerra erano stati solitari. Aveva studiato da sola a Hogwarts, poi in Europa, dove non c'era stato tempo per nient'altro che relazioni professionali. Da quando era tornata, poi, aveva praticamente vissuto in ospedale. Non c'era mai tempo per le amicizie. Quando aveva tempo libero, Harry e Ron erano in missione. Quando tornavano, era generalmente all'indomani di una battaglia, quando le abilità di Hermione erano più urgentemente necessarie. Aveva così pochi ricordi con uno dei due in circostanze non professionali. Poi, dopo la battaglia finale, la prigionia sotto Hogwarts era stata come una caduta senza fine. Sola, sola, sola, finché la memoria si era cannibalizzata. Quando era stata finalmente trascinata fuori e costretta ad entrare nel programma di riproduzione, si era ridotta alla sua funzione. Per la guaritrice Stroud era un grembo, per Voldemort era una potenziale fonte di intelligenza bellica. Non era una persona, non per nessuno, tranne che per Malfoy, che la trattava come una persona, rispondeva alla maggior parte delle sue domande e la guardava come se la vedesse, le parlava, la trattava come se fosse personalmente importante per lui. Quando la feriva, sembrava sempre forzato e che lo facesse senza volerlo. Tutti gli altri le avevano fatto del male solo perché potevano. Anche gli elfi domestici la guardavano appena. Non c'era niente in cui seppellirsi a Malfoy Manor. Nessun vuoto infinito in cui perdersi. Era solo Hermione, seduta a farsi domande e a piegare carta, intrappolata in una casa fredda. Malfoy era l'unico po' di calore o vita o contatto umano che aveva. Che lo volesse o no, si stava attaccando a lui nel suo disperato isolamento. Non poteva. Aveva ucciso tutti. Li aveva uccisi o giustiziati. volente o nolente, la stava violentando. Era solo una pedina per lui. Non avrebbe tradito i ricordi dei suoi amici in un modo così orribile. Non avrebbe tradito se stessa. Se fosse morta Malfoy Manor, lo avrebbe fatto aggrappandosi ai pezzi di se stessa che le rimanevano. Come la morte stessa, Malfoy le aveva rubato tutto. Le stava aspettando di prenderne ancora. Poteva stargli lontano, poteva rifiutarsi di impegnarsi a meno che lui non la costringesse e la obbligasse. Poteva, l'avrebbe fatto. Era abituata a stare da sola. Passò il resto della giornata a cercare di convincersene, a prepararsi. Malfoy doveva fare un'altra sessione di legimanzia. Andava sempre dopo la sua finestra fertile. Avrebbe trovato tutti quei pensieri nella sua testa. Probabilmente si sarebbe preso gioco di lei. Lei non gli avrebbe risposto. Passò il pomeriggio a costruire una torre di carte. La giornata passò. La cena arrivò. Malfoy no. Cercò di non essere ansiosa. Cercò di non continuare a guardare l'orologio. Ignorò la sensazione di irrigidimento nel petto mentre continuava ad aspettarsi che lui apparisse. Probabilmente lo stava facendo apposta, si ricordò. Forse le stava leggendo la mente mentre ci stava pensando prima. Probabilmente la stava torturando intenzionalmente. Continuò ad aspettarsi che alla fine lui apparisse finché non furono passate le 11, orario in cui Hermione di solito dormiva. Alla fine andò a letto. Non riusciva a dormire. Rimase sdraiata lì, chiedendosi perché non fosse venuto. Forse era di nuovo in viaggio. Il giornale non aveva pubblicato nulla, ma forse l'avrebbe fatto. Forse era fuori con una storia a qualche evento. Ma Hermione non credeva di ricordare che fosse stato menzionato qualcosa nelle pagine della società. Forse erano solo andati a cena. Lui e Astoria andavano a cena insieme. Giacque a letto a farsi domande finché l'orologio sul muro non indicò che erano quasi le 2 del mattino. Si alzò dal letto. C'era la luna quasi piena. Andò alla porta e lasciò la sua stanza, vagando per i corridoi dell'ala nord, illuminati dalla luna. Il ritratto la seguiva come un pallido spettro. Seguì i muri con le dita mentre camminava. Non aveva mai avuto attacchi di panico all'interno del Manor, ma la sensazione del muro sotto le sue dita era rassicurante. La luce della luna gettava ombre lunghe e nitide sui pavimenti e sulle pareti. Un pensiero la colpì improvvisamente. E se Malfoy fosse morto? L'avrebbe saputo? Probabilmente no, non per giorni. La guaritrice Stroud sarebbe andata a prenderla per farla trasferire a qualche altro Legilimens. Forse Voldemort avrebbe riportato Piton dalla Romania e gli avrebbe ordinato di ingravidarla lui, invece. E se fosse stata già incinta? Il pensiero la fece gelare. E se fosse stata incinta e Malfoy fosse morto? Voldemort avrebbe aspettato che lei partorisse e poi avrebbe preso lui stesso i suoi ricordi. O l'avrebbe fatta abortire in modo che potesse essere trasferita. Se avesse portato a termine la gravidanza, cosa gli sarebbe successo? Voldemort avrebbe dato il bambino ad Astoria. Astoria l'avrebbe ucciso, torturato a morte. Se fosse assomigliato a Malfoy, Hermione, Astoria probabilmente gli avrebbe strappato gli occhi e lo avrebbe arso vivo, fatto morire di fame. Rantolò e cominciò a iperventilare nel corridoio. Non c'era niente che potesse fare. Non c'era niente. Non poteva fare nulla. Aveva passato mesi a desiderare che Malfoy morisse, ma ora il pensiero la riempiva di terrore. E se fosse morto? Continuava a respirare sempre più velocemente. Le mani e le braccia cominciarono a pungerle come se ci fossero degli aghi a sfiorarle la pelle. Aveva il petto compresso come se fosse stato schiacciato. Non riusciva a calmarsi. All'improvviso ci fu uno spostamento nell'oscurità. Hermione si bloccò. Soffocò un sussulto e si guardò intorno. Malfoy uscì dall'oscurità. Era certa che non fosse stato lì un attimo prima. La luce della luna catturava i suoi capelli chiari e la sua pelle e sembrava terrificante e angelico allo stesso tempo. Lo fissò, sentendo il suo panico iniziale svanire. Non era morto o morente. Il senso di sollievo che provò nel vederlo. Cercò di non pensarci mentre lo studiava attentamente. C'era qualcosa nel suo viso. La tensione sembrava leggermente allentata dall'espressione dura e fredda a cui era così abituata. Sembrava meno sull'orlo di un esaurimento. Si avvicinò a lei. I suoi occhi la sondarono lentamente mentre la valutava. Granger. Il suo nome uscì dalle sue labbra come se facesse le fusa. Sentì un brivido di incertezza attraversarla. Non l'aveva mai chiamata per cognome, nemmeno una volta da quando era arrivata. Era sempre stata sangue sporco. Allargò gli occhi. Era ubriaco. I suoi passi erano ancora fermi e la voce non aveva sbalzi, ma ne era sicura. Non si mosse. Lui si avvicinò finché lei non indietreggiò, ma continuò finché non fu intrappolata contro il muro e lui a pochi centimetri da lei. «Oh, Granger!» Lui sospirò fissandola, alzò una mano e gliela posò sulla gola, ma non strinse. La lasciò lì. Poteva sentire il calore di quella mano penetrarle nella pelle. Lo fissò. Anche da ubriaco la sua espressione era una maschera. Non era sicura di cosa intendesse fare dopo. Fece scorrere leggermente il pollice lungo il suo collo e lei sentì la pelle pizzicare. Sospirò di nuovo. «Se avessi saputo il dolore che mi avresti causato, non ti avrei mai preso». Rimase lì, tenendole la gola. Poteva sentire il suo cuore battere contro la sua mano. Non era sicura di cosa volesse dire o se dovesse scusarsi. Poteva sentire l'odore di alcol nel suo alito. «Ma», disse dopo un minuto, «a questo punto suppongo di meritare di bruciare e mi chiedo se brucerai anche tu con me». Il viso era improvvisamente vicino al suo. Poteva sentire l'aria delle sue parole sfiorarle la pelle. Le labbra di lui si schiantarono sulle sue.